sono tutti di riserva 8. E niente, però il vero non ho più sentito nessuno, prima modulavano Valerio eccetera eccetera, poi non li ho più sentiti. Perché Valerio è un periodo che non sta bene, ci siamo sentiti al telefono, Roberto è per i gatti suoi, gli altri sono per i fatti suoi, e poi ci hanno a volte fanno ruota sul canale 15 tra di loro. Vabbè, a me Alghero mi arriva, il più basso che mi arriva è 9,5, proprio quello con 5 watt. Poi se c'è qualcuno che ha qualcosa in più, 9,10, 9,20. Ma che tu sappia Valerio, lo sta prendendo quel 2009? No, oh, assolutamente. Quello che gli ho dato io. No, no, no. Assolutamente no. Nel modo più assoluto. Te l'avevo chiesto, chi è che stava cercando un baracchino Colt? Boh, non mi ricordo. E mi ha detto di no. Anche perché praticamente l'ha voluto lui da me proprio apposito per mettere la Lan 48 in macchina e quello lì tenerlo a casa, capito? E non so come te chi sono questi ragazzi. Bello mi quello lì, quello l'ho comprato a Massimiliano. Bello veramente, tutto blu, completamente tutto blu. Smitter, cambio canali, luci, tutto blu. Tutto completamente a frontalino rifatto. Tutto, molto bello, una bestia. PEP aveva quasi 50 watt modulati, 40 watt modulati. Solo la radio, regolabili, veramente molto molto bella, bellissima radio, io purtroppo non le posso usare perché disturbo e quindi non voglio rottura di balle e poi no, non ci vado o non ci andavo, adesso l'ho detto a Massimiliano, molto probabilmente me ne prendo uno e inizio a fare un po' di casino anch'io nel 45 d'estate, intanto oramai non c'ho più niente da perdere, l'antenna nella GV Gardi e c'è la biglia in culo. Dai, dai, c'è un attimo in aspetta che stavo bugnando, forse vuole scendere, perché stamattina non ha fatto bisogno di che doveva fare, deve essere adesso ci ha mandato in pancia, dai, lo porto giù e poi ci sentiamo dopo, buona serata a tutti, continuo queste ore, a dopo. Eh già, va bene, dai. Muros, quanto ti arrivo io col DAC così, con la potenza della radio? Arriva solo 9 più 30 quello Smitter. Va bene, dai. Avanti, Flipper, riprendi e fai girare. Beh, riprendi tu, dai. Io chi? Io? Roberto Galei. Roberto non ha detto, riprendi tu, hai detto, però non ha detto il nome. Forse non hai scacciato bene. Ok, riepiloghiamo, chi c'era qua? C'è Claudio da Muros, c'era Gianni che è andato a portare a spasso il cane. Ci sei tu, Claudio, l'altro. Chi c'era? Buh, rifate un riepilogo. Capa, ci sono io Franco. Siamo anche Robè, se fate anche wrapping, come si chiama? Wrap, wrapatrice, come si dice? Tipo gomma, dai. Ma a quel punto vi conviene mettere quelle cose adesive, quei pannelli adesivi, ormai stanno facendo quelli lì, poi quando ti stacchi te ne lo togli. Non dà più fastidio toglierlo? No, assolutamente, si toglie e basta, diciamo, con l'aria calda, soffiata d'aria calda. Non li stiamo ancora facendo, in preventivo c'è di farli, i miei nipoti si stanno specializzando per farli, che c'è un amico loro di Nuoro, bravissimo, fa dei lavori che rimane a bocca aperta, e loro stanno prendendo informazioni da questo qua per farli. Però più che verniciare prodotti plastici e cose del genere, quello almeno quando ti stufi lo tiri via, si lava con un po' di trielina, si toglie via quello che non serve, i residui di adesivo e va più che bene. E puoi cambiare colore, se graffi, vedi, abbiamo fatto uno grosso, un furgone, forse l'ha visto Claudio, un 23 pulsi, non l'abbiamo fatto noi, nel senso l'abbiamo tolto per lavorare e poi per portare dal vero. Adesso scusate. Ecco qua, ho commutato al mitico K. Qua i picchi sono diversi, il lago proprio si muove di brutto. No, il picchio grande c'è qua. Vabbè, dai, l'ho appena accesa, non è che l'ho spenta, non ho fatto altro che commutare da una scrivania all'altra e sedermi nell'altra poltroncina. Si sente proprio. Ottimo per la trippa o per il trucco, com'era? Per il mal di schiena oggi, sta il freddo, sono rientrato. Non fa vedere il mal di schiena, beh, niente, riprendi, vabbè che stavi dicendo qualcosa, io intanto ho commutato, mi sono seduto nell'altra base, vai. No, stavo dicendo. dicendo a coso, a Franco, che ne abbiamo fatto uno, nel senso tolto l'adesivo, questo era tutto mimetizzato, stiamo parlando di un mezzo 23 putti, quasi un pullman, dai, un mezzo pullman, gliel'ha fatto questo di Alghero, non ha fatto un lavoro a regola d'arte, nel senso, perché l'hanno tagliato col taglierino, hanno inciso anche, hanno toccato anche la verniciatura, infatti noi abbiamo ripreso dove hanno fatto danno loro, a parte il colpo si è sbattuto dietro, però li fa lui e sono prezzi abbastanza onesti. Per il fuoristrada va più che bene fare quel tipo di lavoro. Tipo, puoi darmi un'idea, un fuoristrada, un classico, no? Un facile nero, tipo, dai. Ma tu lo vuoi fare anche la capota? Ma la capota è meno a rischio, anche se qualche passaggio lo fai strisciano sopra anche i rami, però diciamo i graffi sulla capota poco ti danno fastidio, più che altro vedi quelle delle fiancate. Perché bisogna avere, ma si può andare, se vuoi io ti metto in contatto, ti devo far dare il numero di telefono, perché adesso non me lo ricordo come si chiama, se no c'è quello di Nuoro, però portarla a Nuoro è un po' complicato, questo di Alghero te lo possono prendere anche loro. Guarda, per tutto quel camion, che è una cosa enorme, ti ripeto, un 23 putti, tipo un pullman a metà, dai, sarà un 6,50 m di grandezza e poi molto alta, perché dentro c'ha di quelli che usano alla Zinara, proprio quello della Zinara per portare i turisti, mi sembra aveva pagato 2.500 euro, però stiamo parlando di una cosa enorme, un fuoristrada io penso te la capi con la metà, anche meno secondo me. A livello di metri quadri, diciamo, se vogliamo parlare così volgarmente, penso che sia molto molto meno della metà, di forse un quinto di quello che stai parlando tu. Poi se ti appenti li fa anche qualcuno qua a Sassari, naturalmente ti posso mettere in contatto con questo di Sassari, perché se ti prendi un po' la mano teoricamente lo potresti fare anche tu, se ti metti, ci vuole un po' di manualità, dai, però se non devi fare cose troppo impegnative, per dire, perché lo sai cos'è il problema, quando ci sono i cristalli, le guarnizioni, il ritagliare eccetera eccetera. Io pensavo fosse una cosa proprio usa e getta, una roba così ci serviva, una pellicola da mettere e togliere. Quindi anche se non è perfetta non succederebbe niente, come dici tu, capito? Ma a quel punto ci sono dei pannelli magnetici, te li ritagli a misura nei punti critici. Sì, anche quello lo conosco, forse li usano nei tram, a Sassari. Sì, come pubblicità, pannelli pubblicitari, le scuole di guida lo usano, mettono e li togli, si applicano, li appiccichi sopra per magnetismo e poi quando li vuoi togliere te li tiri, e quelle sono abbastanza spessi, per dire, per piccole abrasioni e cose del genere vanno in modo particolare eccellente. Sì, sì, quello anche quello lo ti vede, poi li puoi staccare e riutilizzare, ti fai le sagome, sempre che ti attacchino bene in base alle curve della macchina, che sulla superficie piatta va bene, ma se c'è delle onde, delle pieghe, delle modanature è un po' un casino, dai fai girare robe, perché io molti non li sento. Scusate, vabbè, facciamo riprendere a Claudio Lamuro, avanti, scusate il monopolio, e adesso stasera non posso farlo perché al buio ho staccato la luce generale, per quello è comandato dall'officina nel lato locale, ci stavo pensando a farla stasera quando sono salito al giorno, di giorno poi ho detto ma ci viene direttamente se lo prende, già te lo faccio domani mattina, se mi ricordo te lo faccio, dai te la mando, l'altezza bisogna, te lo stavo guardando, l'altezza, se ti ribalti tutti i sedili, penso di sì, dai, speriamo di sì, al limite si mette appena di traverso, dai, ti guardo anche le misure più o meno, dai. Sì, l'ho commentato, bella radio, è anche abbastanza ingombrante, diciamo, come piacciono a me, perché le radio piccoline a me non piacciono. Bisogna stare attenti con la corrente elettrica, non c'è da scherzare, e a vedere se il cavo di massa, quello dell'alimentazione, è collegato, se l'hanno, si sono collegati, ricordate di collegarlo alla carcassa, al metallo dell'apparecchio, perché molte volte non lo mettono, e c'è il rischio se tocchi una fase, magari da un'altra parte ti fulmini. Ok, di nuovo facciamo girare, vediamo se c'è oltre a Franco, se c'è qualche altro che vuole entrare, se no riprendi tu Franco. Non è entrato nessuno, comunque adesso per la prima volta oggi ho sentito Claudio Di Muro, perché sicuramente si è spenta la pompa di calore, adesso l'ho tirato fuori, te lo saluto nuovamente. Vediamo un po', Nicola c'è ancora oppure ha fatto QRT? Nicola ha salutato un attimino, ha testo un controllo e poi è andato via, non so se poi era in ascolto o che cosa, no? Scusa, un attimino, lascio chiamato il bianco, cioè, sento qualcuno nel fondo parlando, avanti, chi vuole entrare sul 10? Una bassa, scusate. No, vabbè, forse qualche disturbo, dai. Ok, io ho ancora qualche minuto che pure devo andarvi anche io. E avanti a te Claudio e basta. L'avete avuto modo di utilizzarla quella roba là famosa, Claudio? Eia. Sì, no, vabbè, potente non erano, però che tiri fuori 25 watt con la radio lì, non è che ne davano molto. Però c'ha tutti i modi di emissione, c'è anche in banda laterale, funziona, eccetera. Al contrario di molti altri che non ce l'hanno. Se c'è un'antenna, provala magari a bassa potenza e ti fai tutte le prove possibili, nel senso ti metti un ricevitore e vedi come esce. Se avete, io non l'ho mai provata e basta, ho solo ascoltato. Che cosa? Schiacciare la portante, cosa gli hai dato? Quello vecchio, il 700, cos'era? Quell'altro, io due, 701, cos'è? 700, scusa. Ok, guarda che ti ho mandato la radio che in arrivo, dovrebbe arrivare questa settimana. Bianco per me un attimo. Quella non c'è. Se tu guardi Luis, quello è marca di macchina lo stesso. Fatto da un'altra da abbinato, però non ce n'è per nessuno. È introvabile, è bello, ma bello che a Roce ce lo mette in tasca. Aspetta un attimo il telefono. Oh Claudio Muro, se stavo andando via, dai, vi saluto, io adesso devo andare da un'altra parte. Saluto a tutti, Claudio Torre Controllo, Claudio Muro, se eventuali amici qua. Ciao Franco, anche a te. Ci risentiremo in altre situazioni. Ciao ciao. Ciao Robè. Ciao Claudio, alle prossime, dai. Guardalo, poi dimmi cosa ne pensi. Che quella è una radio. Ancora. Sì, era al telefono. Ciao Claudio di Muros, alle prossime, ben sentito. E ciao anche a Roberto che ha chiuso. Chi ci è rimasto qua? Non so se c'è Luca Flipper, Roberto è andato via. Luca del Monte, mi sa che non c'è nessuno. Ma stai cucinando di buono? Io? Non lo so. Devo vedere ancora, ma penso che sì, ho tolto, visto che c'è la canna di pollo che hanno tolto, quindi non so se dobbiamo fare solo prima, non lo so. Sono già le 7:15, ho ancora un pochino, poi stacco dal sistema americano perché l'aria è uscita con Mario e quindi non so che ora rientra, perciò devo preparare io. Come sta la signora? Gli hanno tolto i punti, sta iniziando piano piano a camminare, sta facendo... praticamente sta seguendo la terapia che gli hanno dato, con le pomate, delle cose, deve lavare il piede con del sale, acqua e sale, poi asciugarlo, mettere queste pomate, e la terapia sta seguendo. Piano piano, vai, già riesce a mettersi in piedi anche lì. E i dolori ce li ha ancora oppure stanno sparendo? No, il dolore alla pianta del piede ce l'ha sempre. Perché ancora un po' gonfio, ho capito, quindi ci vuole un po' di tempo. Si deve assorbire tutto il trauma ancora. Così. Anch'io ce l'ho un po' così, mi stanno iniziando, perché mia nonna, mi ricordo, soffriva tantissimo di queste della luce a valgo. Addirittura la luce ce l'aveva di traversa sotto le dita, sotto le altre dita mia nonna, Come faceva a camminare non lo so. Una vicina qua di casa ce l'ha così, non si opera, paura a operarsi, tutta zoppa, tutta guascia, camminendi. No, gli entravano più le scarpe, no. Non stava più andando da una parte, quindi l'ha fatto. E va bene così, adesso vedrai che appena si rimette in piedi è renata, perché può uscire, camminare bene, è un problema. Non stavamo più andando da una parte a passeggiare, per dire, andiamo con la cosa d'estate a fare una passeggiata, non ce la faceva a camminare, capito? Quindi adesso spero che si rimetta in piedi bene e così siamo a posto, dai. Proprio causa pennello per rimettersi in piedi. Vuol dire che era già invalidante la cosa. No, io non sono felice, non ho nessun dolore, dai, ancora no. Però mi accorgo che un po' sta convergendo verso l'interno, sia uno che l'altro. Uno più dell'altro. Speriamo bene, dai. Infatti, speriamo bene. La partita non ti è piaciuta ieri? Sì, vince ma non convince. Adesso ti dico se veramente è una Juventus che sta puntando in alto con questo nuovo allenatore domenica, che c'è Inter e Juventus, perché c'è solo una grande squadra, attenzione, però erano in 10, quindi hanno sofferto per segnare. Adesso vediamo come si comporta se fa il gioco che ha fatto col Milan e la distrugge all'Inter. Però bisogna mio parere, è una squadra che vince ma non mi convince. No, anche lì l'altro giorno ha fatto un bel inizio di secondo tempo, caspitina, infatti pensavo che riuscisse a vincere, invece poi dopo un po' c'è nuovamente seduta, dai. L'Inter è così, l'Inter ha sempre fatto quel gioco, parte in quarta e poi si scomprano, perché Conte li scompra, Conte è un allenatore che vuole giocatori che corrono da una parte all'altra, capito? Così era con la Juve, li ammazzava, è un bravissimo allenatore, ma c'è questo vizio di scompare la gente, perché poi non c'ha cambi, non è che c'era i cambi che c'era Juventus, perciò c'è un attaccante che è stanco, entra l'altro attaccante, se quello è stanco entra l'altro attaccante, ne ha 5 attaccanti in panchina, 5 attaccanti, 3 difensori, 2 delle fasce, 4 centrocampisti, cosa c'è un'altra panchina la Juve, però ti ripeto, vinto una grande squadra, quest'anno è in grandissima forma, però c'è questi alti e bassi come la Juventus, a volte insomma si fermano, però ti ripeto, se la Juve dovesse fare il gioco che ha fatto contro il Milan, è pur certo che all'Inter la distrugge. Comunque quella Roma è stata una bella partita, dai, un po' valevano prima una poi l'altra, e poi un 2-2, sì, che non è che è contenti né una né l'altra, secondo me. Sì, col Milan si è un po' ridimensionato l'altro giorno con la Juve. Sì, vabbè, la Juve ha giocato meglio sicuramente, ha frecciato di più, ha dato un po' di più, però ti ripeto, se dovesse fare quel gioco l'Inter è fuori dai giochi, allora è un bel campionato, se dovesse pareggiare o perdere, cioè pareggiare è ancora in gioco perché ne è una da recuperare, se dovesse vincere a Milano di nuovo, allora i giochi sono belli che fatti, sono aperti, le favorite allo scudetto sono la Juve di nuovo e il Milan, capito? Oh, ripeto, come dice Luca, la palla è rotonda, bisogna vedere che gioco fanno, se giocano bene vincono, se giocano male perdono. Sì, dai, l'importante è che sia una bella partita, dai, che se la giochino a viso aperto, dico, uno può anche perdere, ma bisogna anche dare l'anima in campo, si è pagato per quello. Io quando vedo questi che fermi così, mamma mia, poi ha fatto quei cambi, sì, Conte, però non sono andati bene, anzi secondo me ha peggiorato la squadra. Mi ricordo sempre un proverbio che diceva, così, un allenatore, squadra che vince non si tocca, però intanto qualcuno la tocca, la squadra. Ma infatti però non puoi far giocare 90 minuti 103 persone, i cambi ci sono, devi realizzare i cambi. Aspetta, ho fra un attimino che mi sta chiamando, dai, 2 minuti. Si scappa. Io ho preparato gli impacchi, sono un po' un casino. Sta facendo un po' di terapia, ma devo dire, all'uscita di Veneto dal Monte, dal Ponte Nuovo, dal viadotto, dai, arrivi cos'è? Via Sulcis, quella lì. Quando arriva quel semaforo che incrocia con via Castelletta, sulla destra ho visto un'antenna, forse una mantova, è in funzione quell'antenna lì. Non so se c'era ancora il baracchino, Alessandro, ma che ci vuole anche minchia di posizione. Quello, Alessandro, sì, il barbiere. Non so se è ancora attivo, l'antenna c'è, il baracchino non so se ce l'ha più, la Luca del Monte bisogna dirlo. E quindi sai chi era, quindi no, ultimamente comunque non sta entrando, no. Era una curiosità perché ho visto, no, anch'io ho pensato, una bella posizione, non è come la tua, però sicuramente è una buona posizione. No, beh, con me non ha niente a che fare nessuno, io sono fuori da Sassari praticamente, io sono in periferia, la zona più alta che c'è, quella è una bella zona per il monte, per, insomma, per il mare, va bene, una bella zona. Si è aperto anche Alghero, si è aperto anche quella zona lì, da Fortotore sicuramente. Sì, si difendeva bene, insomma, dai. Si difendeva bene, io non ho ostacoli, fra un'altra cosa, qua è un'altra gubba, e adesso l'estate faccio un altro lavoro anche, l'estate sa che come viene a fare? Aspetta un po', si può una tipo un mongolfiera, attacco l'antenna, un pallone di quelli, visto che fanno le fiere, una cosa del genere, no? Che sono anche abbastanza robusti, e la porti su quanto vuoi l'antenna. No, io tiro su tutti gli elementi, mi sono rotto la balla, cioè non devo stare con... Io ho quattro elementi da 3 metri l'uno, capito? Sono tutti dimezzati, 1,5 metri, 1,5 metri, 1,5 metri, li tiro tutti su d'estate. E le faccio l'anello su in punta sotto la spirale, l'anello con gli occhielli, tipo una cravatta, però fatta a fare al fabbro, no? Dici cravatti che vende, non se viene a nulla. E le aggancio ai maniglioni con il bike, non capito? La finisco definitivamente, deve essere a regola d'arte con l'antenna. Tanto di cavo ce n'è, perché giù ne è rimasto almeno altre 2,5 metri, 3 metri, quindi così tiro tutto bene sul cavo e basta. La finisco, la metto più alta possibile, ancora di come adesso è circa 6 metri, tirando tutti sugli elementi, sarà 5 metri qualcosa, tirando tutti sugli elementi va più di 8 metri, e boh, la finisco, metto il bike sotto, la molla praticamente alla fine dell'aggancio dell'antenna, sotto il tubo, e poi a metà le metto i tiranti di nylon, quelli grossi che c'erano sulle direttive. No, per te, tu già non hai problemi. Per me dico, potrei fare una cosa del genere, una soluzione del genere, è che quando c'è il vento questo pallone non si sa dove vada a finire, vabbè, lo puoi sempre portare giù. Anche quella è un'idea, amico, tipo mongolfiera, un pallone gonfiato con elio che ti porti su l'antenna, che esatto, la mia è, basta che la stacco dalla canna da pesca, la mando su dove voglio, appesa al filo, dai. Lo so, l'avevamo fatto una volta con la mamma di Bartolomeo Tisiello, un pallone, avevamo messo una base magnetica legata con l'elastico e un'antenna di macchina, ma l'avevamo messo a circa una trentina di metri, 30-40 metri, ma non lo sai come arrivavamo a Sassari, 13-58 in calata, l'avevamo fatta lì alla zona industriale, dove abitava lui. Bartolomeo, no, io la finisco perché non ho finito niente, devo togliere ancora anche i dipoli che ci sono rimasti, quella roba lì, capito? Non mi interessa più niente, tolgo tutto e lascio c'è una X30 piccolina per il PMR e poi la manco, vabbè, non mi apro tutto, fra non attività amatoriale, tanto io non le faccio, quindi è inutile stare con questi, con queste cose. Ho venduto tutto a HF, non ne ho più. HF così chiamati, baracchini a sintonia continua, c'ho questo 140 e 430, poi il resto sono tutti baracchini. HF non ne ho più. Ho tolto tutto, direttivo, balle e poi vale. Ne tolgo anche di fuori, così c'ho più spazio e mi sistemo molto bene la Mantova. La metto proprio bene. Metto tutti i suoi tiranti che ci vogliono. E uso solo la 27 e basta, come sto facendo. Ma il 140 te lo tieni, sì, quello non conviene darlo. Secondo me è uno dei migliori, dai. Quelli che poi durano nel tempo, è un carro armato. Ho venduto il 440, mi ho comprato il 140, anzi ne ho due di 140, ne ho uno in riparazione così chiamato. Stiamo facendo un controllo, allineamento e tutto, ce l'ho su il continente. Dovrebbe mandarmelo questa settimana, ci siamo sentiti stamattina, lo stava finendo, deve cambiare due fesserie che secondo lui non vanno bene, però non vanno anche quello, ne ho due, quindi c'ho 240 e un 430, ma non li usano, che è un 27, 430 è sempre in ascolto, vabbè, in banda amatoriale, ma giusto per non cambiare l'antenna perché ci sono ancora i dipoli, ma una volta che stacco i dipoli me li commuto col commutatore tutti e tre, li uso tutti e tre 27 con la Mantova, capito? Ma ti metti 32 o lo metti uno, te lo metti in vendita, 140? Non lo so, devo vedere, se me lo pagano per quello che l'ho comprato e la spesa che ho avuto per fare questi controlli va bene, se no me lo tengo, non è che io vivo di vendita di radio, fra, lo sai benissimo, mi conosci, io non ci voglio guadagnare niente, però non ci voglio neanche perdere, se mi danno i soldi che ho speso, me la prendo, un 140, anche perché quella è... Tecnicamente è ancora più nuova di questa, nuova di pacca, non ha mai funzionato, diciamo, mai usata il 27, niente. Ce l'aveva in ascolto una CWL che non c'è più. Capito? E quindi quindi niente. Se non me la tengo, non me la faccio tutta. Che quotazione ha? Che quotazione avranno? Guarda, un 140 lo paghi, dalle 250 alle 270, una cosa del genere, poco meno di 300 euro. E cosa c'hai? Cioè, c'hai l'alimentatore, tutto, cosa c'ha? La cassa, cosa, com'è? Oppure è tutto incorporato? Incorporato, è un baracchino normale, a sintonia continua, è una casa normale. Io perché mica c'ho, cosa c'ho? Vabbè, io c'ho la linea completa, c'ho il PS430, il 140 e la SP430, la colonna in eterna, linea completa, manca la T250, però è semi completa, diciamo, se no, se prendi solo, se uno compra solo la radio è completa lo stesso, no? Una radio normalissima, la tacchiera alimentatore è come un baracchino, c'è il microfono normale e boh, capito? Poi se vogliono un MC60 ce l'ho, allora il prezzo sale, però ti ripeto, devo valutare quando arriva. Devo provarla e vedere se come questa che spinge così, come questa, bene, perché questa l'ho comprata da un radioamatore ed era appena rientrata da Bianconi, infatti c'è ancora l'adesivo nella fascia per dove si spacca la radio, praticamente dove si apre in mezzo, lui ha messo l'adesivo, capito? Ed è sempre così, è stata questa linea previsionata e tutto a Bianconi, è nuova nuova, quindi devo vedere, insomma, una me ne devo tenere. Sì, no, questa c'è bene, quindi ha messo l'adesivo per vedere se qualcuno lo apre, magari no. Sicuramente, io non l'ho mai toccata, perché quando l'ho comprata me l'hanno fatta arrivare direttamente da lì, capito? E quindi so che è perfettamente funzionante al 100%, cioè i watt belli sui, che non sono tutti tirati perché il tecnico non te li tira, però c'ha 50, mi pare, watt, 50 watt in AM, ma modulati arrivano anche a 70-80, che sono più che sufficienti. Io lo uso sempre a 10 watt, modulati 20-30, va bene. Poi c'è una bellissima modulazione, già la senti, ricezione da favola. Quando le radio sono allineate e tenute bene non c'è niente da fare, capito? No, c'è bene. Come assorbimento, di cosa ha bisogno? Il calimentatore, no? 50 ampere? No, una trentina di ampere per farlo funzionare bene per la banda laterale, ma per la M bastano anche 20 ampere, no? Non c'è niente problema. Questo, allora, ho tenuto, adesso che caldo sta andando a 20 watt, modulati quasi 50, e sta assorbendo 10, 11 ampere neanche. Sì, ma devi essere, cioè, devi prenderlo in previsione anche di usarlo alla massima potenza, dai. Un po' superiore di quello che serve, così almeno non va in crisi. Ma senti, ormai sono questi switching che costano poco e vanno bene, no? Cosa fa? Dico, ormai tu usi switching o gli originali stai usando? No, io ho un Broxel dal 55-60, da 50 ampere, un ottimo alimentatore, e poi ho un Diamond da 50 ampere lo stesso, ottimi alimentatori, uso quelli, ma prima ne avevo anche un altro, tre alimentatori, ma avevo un mare di radio, ne ho venduto quattro, tre VHF, li ho fatti fuori tutti e tre, poi ho fatto fuori le VLU base, 275H e 780, ho fatto fuori tutto, non c'ho più niente, la verità, nulla, ti ripeto, c'ho 430, adesso è il 140, come baracchini a sintonia continua, così chiamati da me, apparati HF, ma insomma, di generazione un po' scarsa, ma comunque fanno il suo lavoro, e poi solo baracchini, boh, basta, adesso non c'ho più niente. E piano piano stai facendo un po' di pulizia tecnica, diciamo. Io ho rinnovato l'SWL perché non trovavo più la vecchia, l'ho rifatta, non sa mai, vabbè. Non stanno controllando a me, però meglio essere in regola, almeno per l'ascolto. Io infatti uso, tengo la licenza e la patente, tra l'altro non ho manco pagata, la pagherò entro il 31 gennaio come faccio sempre. Giusto per la carta, capito, per la detenzione delle radio, basta, per non avere tue balle, se no anche quella l'avrei ho voluto tutto, anche le direttive. Un buco da tre elementi, rotore, control box, e mi è rimasta la 5 elementi per i scemetri, che non ne ho più scemetri, quindi l'antenna è lì, in mansarda, smontata. Devo fare il cambio con un radioamatore, invece mi ha detto che non ci sta, e quindi già rimane lì, non mi sta chiedendo niente. Se c'è qualcuno che fa cambio o qualcosa, glielo lasciano, già rimane lì, non ne voglio più sentire, non mi interessa. Vabbè, è una tua scelta, che condivido tranquillamente. Adesso infatti mi procurano una Diamond, una X50, esiste, sì. Ce l'ho io la X50, non ti posso mandare la foto perché sul letto, io ho tolto la 510 col barragione grande che avevo, l'ho regalata a Luca, a Flipper, e io ho messo una X50, piccolina, giusto per fare due chiacchiere in PMR, non in VNU, solo in PMR. E infatti non sto manco più entrando in PMR, ma c'è quello, sul tetto c'è quella lì, la Mantova, il dipolo che fa 15, 20, 40 e 80, basta, non c'è altro. E poi, ripeto, appena arriva il tempo buono, salgo e tolgo anche quello. Tolgo via tutto e basta, non tanto uso, giusto per ascoltare, non è neanche per chiacchierare, perché il telefono non ne ho neanche più. Sì, solo per fare ascolto, solo per quello, per imparare qualcosa, ma a volte sono discorsi che ti appassionano un po', di elettronica, no? Di varie cose, già lo sai meglio di me. E quindi un po' di ascolto non fa mai male. Sì, ascolto con la Mantova, già una fottinuta, con molto su 430 ascolto con la Mantova, capito? Poi voglio parlare in 27 con molto e parlo con 140, voglio parlare con i baracchini, come poco fa parlo con i baracchini, non mi interessa fra. Voglio morire CB io, basta, sono nato CB io e voglio morire CB. Vabbè dai, mi sa che iniziamo a preparare qualcosa per la cena. Stammi bene, un abbraccio a tutti in casa e ci risentiamo le prossime, ok? Ehi, Afra, grazie anche a te, due chiacchiere. Io manco non sono manco accorto se l'ho tomato qui, adesso mi preparo e vado a portare a finire, vai. Già ci aggiorniamo, Afra, ok? Stammi bene, dai un abbraccio grande ad Anna, anche da parte di Anna mia e di Laria, ok? A Carretto saluta, ciao. Grazie anche tu, saluta a tutti, un abbraccio da parte nostra. Grazie ancora, ciao. Ciao, ciao, ciao. C'è qualcuno su 10? Hola? mi stavo regolando un po' di potenza per non tenerla troppo all'acqua di l'aria, mi capito? E a voi che stai arrivando bene qua? Scappa. No, perché non spingo tanto, capito? Non le tino, non lo tengo tutta a manetta perché non occorre, e cosa? Cioè, va bene così com'è, dai. E a voi che va bene così? Ci mancherebbe. Scappa. E tu cosa ci vendi? Niente, me. Stavo con un po' di baracchino. Adesso poi mi devo regolare il 2009, che devo regolarmelo, perché c'ha problemi di in FM, e che altro. Mi cambio il trimmer, così sono a posto. Scappa. Stavo dicendo Antonio, e beh, cavato bene in aima che c'ho goccio. No, sai che non ho potuto fare nulla, è tutto quanto un giorno in giro, vero? Figurati. Passo domani me lo piazzo in quel baracchino là, e così cerco di eliminare quella ordine alternata che prende. Che c'è cosa l'hai pigliato, beh? Lo so, ogni tanto gli vengono in crisi, a volte sparisce con l'effetto, poi riappare il colpo, capito? Scappa. E cosa ne gioco? Che cosa è? Chissà cosa è capitato così, beh. Ci ha fatto uscire in testa per un giorno, e invece era il microfono. Stavamo per le balle, capito? Vabbè, già si risolve, forse anche ci tutti rimare. Beh, quello sì, meglio il microfono che baracchino, questo è poco ma sicuro. Scappa, ma sicuramente anche tutte quelle alternate strane che uscivano era per quel motivo lì. E appunto per quello, il microfono. Adesso sta funzionando bene, già l'hai visto. L'apparecchio è perfetto, non dà nessun problema, eh. È un demonio quell'apparecchio lì. Funziona benissimo, adesso vabbè, non siamo nei periodi di preparazione, ma appena c'è un po' di preparazione ti rivedete almeno. Anche con quei vatti suoi originali, ti fai tante di quei DX che non avevi idea tu. Quanto da? Il mio è male, ma ti do 20 watt, già lo sai, a voglia, basta e avanza. Scappa. Eppure li voglio fare questa modifica che tu mi hai detto. Beh, vabbè, già si può fare la modifica, non è quello il problema. Per un attimo che mi sta chiamando Sara. Ehi, ti stavo dicendo Antonè, almeno posso mettere l'ingresso e va l'amplificatore, non ha problemi, capito? Non lo so quanti fatti dà, quanti fatti riesce a dare poi. E molti di più, capito? Con quella essenza lì te la dà molti di più. Io l'ho fatto un quadrignale che c'è grosso, quindi figurati. Per il vatto non era molto di più. Ne va parecchia l'acqua, lo sai. Se non mi ricordo c'è un video di quelle lo cerco te lo mando, di come l'ho modificato. Cosa sai di quale resistenza sto parlando? Aspetta un attimino che lo cerco e ti mando l'immagine. Scappa. Tu ce l'hai, io un giorno te lo porto, lo facciamo. E vabbè, aspetta che te lo faccio vedere 2 minuti. Eia, dici cosa ci vuole, rubemmo, non è un problema. Se mi dici che l'ingresso poi va bene, non ho problemi. Non trovo tranquillamente con 20 watt io quel lineare, aspetta un attimino. Ti parlo di quello che ho io, quello verde, 2 minuti che ti faccio vedere la registrazione, aspetta. Cappa. Gaffa, fammelo vedere com'è. Se devo modificare quello, almeno non ho problemi. Almeno pompa pure. Guarda la seconda immagine. Cucu. Antonio. Antonio. Cucu. Hai visto quel lineare che c'è sotto lì? L'hai visto? Non l'ha fatto. Hai visto quanto arrivava il vatometro? scappa. E ti ho mandato una foto. E quello lì, se si può modificare, andare più ingresso senza saturare, senza quella porcheria, sarebbe meglio. Ci vuole una resistenza, ci vuole, quella è bianca, ci vuole. Hai visto quanto saliva per il battimento prima di succedere quello che è successo al finale? Hai visto il battimento di quotidiano che ho io di qui? Ti sta arrivando di cosa? Ti sta arrivando? Quando stavo parlando con Don Kawasaki. E arrivavano per 30 a lui, sta caricando l'immagine, sta caricando ancora. Cosa hai detto Antonè? Che ti sto mandando un video quando stavo parlando con Don Kawasaki, questo è un controllo, con quel baracchino tuo che tu c'hai lì e il livello che ho io. E l'ho presentato con 20 watt, figurati tu. Gesù Cristo, e quanto ti dava? E guardatevi la seconda immagine, guardate il wattmetro del lineare. Capa. Non è arrivato nulla. Già ti arriva, sta caricando lento, sta caricando, comunque già ti arriva. Poi c'è la seconda immagine sotto, guarda, tra bene. Già si vede il baracchino, il lineare, quello che ho io. Capa. Capa. Oh, Antonio, devo fare un pochettino di bianco, perché devo fare una cosettina giù. Ci sentiamo dopo? Beh, dopo mi guardo il video e riprendo. E va bene, adesso lo fa l'ascolto. Andiamo, andiamo! E beh, un sciabuco. E beh, per il re. Per il re, magari ho creato una per il re. Vabbè, sì, stavo cenando, là. Poi sono altro. Leggero, poi ripeti il porno e due mele. E sei contento? Io ce l'ho poco fa piselli con uova e in più mi sono mangiato tre, come si chiama, vediamo si chiama quei cosi, ecco i salati. E non va bene, voglia. Va bene, sì, a voglia. Sì, andiamo. Andiamo così. Beh, come stai ascoltando di radio? Bene, è geniale. Sì, benissimo. Sto usando il Condo 4000, sto usando. Così è corretto. 1, 3, 4, 5, 6. Va bene, va bene. Via. Sono contento. Ma legato, facciamo di forza. Mi sa quanto tempo è fermo. Stiamo ai danni così. Come si chiama la... Mi ha regalato una... come si chiama? Una fotocamera. Meglio così. Ma che accende quello? Non accende. Non accende? No. Stiamo già meno in forza, va. Molto strano non ti accende, se te l'avevo regalata doveva accendere. Sa che è di più almeno qua, buh, buoni gusti. Però non accende. Non dà segni di vita. Più volte allora. Doia, per carità. Come si arriva? E Antonio che fine ha fatto? Io ti ha fatto un po'. Ciucca, ciucca, ciucca, ciucca, ciucca, ciucca. Un attimo Antonè, un attimino mi arrivo. Stavo chiamando Luca. Capa. Ma l'MB4 nuovo l'hanno cambiato. No, è sempre uguale l'MB4, non cambiamo niente dentro. È preciso, è sempre uguale. Ne ho avuto tre io. L'ultima versione c'ha i pomelli gialli, c'è il pomello giallo o un'altra cosa. E il pomello grigio con un giallo sopra, come contorno e poi c'è il nero. Quello che potete fare quanti vuoi i pomelli, se proprio ti piace i pomelli colorati. Capa. No, vabbè, l'ho visto così e ho detto ma una cosa nuova. Aspetta un attimino, che sto un attimino andando in bagno, arrivo subito. D'accordo. Ciucu ciu, ciucu ciu, ciucu ciu. Guarda, se mi vedo immagino che fuori i gambi. Porca, ecco, non c'è. È diventato un fogliaio qua. Sì, eccomi qua, sono arrivato. Arrivito sì, meno male. paura. Adesso guardo, lascia vedere. Cosa riguarda? Dimmi, dimmi. Perché sono andato su 24. Minchia. Se siete bene, sì. Dove è che domani è Fabio? Non ho capito, Fabio? Non lo so, tu hai chiesto... Ah, no, no, no, aspetta, ho sbagliato io. No, guarda. Il televisore che si è rotto, che non è stata mai rotta. E gli ho spiegato un po' la situazione, mi ha detto che io non ero un tecnico per sapere il problema. Dice, se io ho acquisto la scheda, siccome c'è scritto restituzione entro un mese, no? Quello che mi ha detto, se io la compro, la prendo la scheda, non funziona il televisore, dice, non mi rimborsa. Ma che televisore è, che scheda è? Buda, non ve l'hai presa, non ho capito. Se l'hai pietra, ma la Fabio, quello che parla per la tira, o chi è? No, quello televisore che stavo dicendo, praticamente accende il LED, ti dai l'ok ma non parte, non accende. Ah. Adesso ho capito. Quindi praticamente tanto che la storia l'ho messo l'altra, no, non accende lo stesso. No, no, no, non l'ho comprata. Lui mi ha detto che se la prendevo, praticamente mi... come si dice? Non mi rimborsava, che non me la dà la scheda per fare la prova, per vedere se funziona o meno. Però non si sa se dipende dall'alimentazione oppure... perché lei da accende, non dà l'input, capito? Io ho capito. Come sono questi televisori qui, è un casino, ho capito. È capitato a me, è capitato. Ho cambiato la scheda e... ho messo la scheda nuova, non ho cavato piedi per la questione di... si vedeva l'immagine doppia, di tutto si vedeva, capito? Il televisore scendeva, cambiava canale, so che rimaneva tutto strano. E quindi non ne valeva come appena, cioè... stavo perso questi televisori qui, non ne valeva come appena, guarda. Lascia perdere, ci rimetti solo il tempo e basta. Ho capito, ma è uno. Forse è stato vecchio, ma è fiammante, capito? È fiammante. Anche quello che avevo fatto a me era fiammante, eppure era un casino, capito? Adesso fa poco già ce li buttano, te ne bisogna, non ti preoccupare. Ti fai un giro di cassetti e sai quanto è una ciappia va, il 21 di settembre. Che tutti quanti si trovano il televisore che non funziona più in chiaro e ci vogliono vedi solamente il canale HD. Tu vedrai più di uno attaccato al cassonetto buttando il televisore. Sì, la gente che sento che trovo cacciato dobbiamo il televisore, ma per la puttana sai a me. Non so che è il televisore, volevo riparare questo qua perché è grande, è bello, capito? Nuovo. Solo che metto mi fa rimborso. Beh, non te ne fanno, una volta che la usi la scheda, io potrei dire, cosa ne so se questo mi mettere una scheda vecchia? Cos'è quello lì? Se compri la nuova cosa, è a rischio tuo. Il discorso è quello lì. Lo so, è a rischio mio. Alla fine ci sento che accetta la restituzione. Guarda, c'è un televisore bello a cadere. 90 lo vedo, ho visto l'altro giorno. Figurati, in offerta. Quindi non so quanto ti costerebbe la scheda. A un certo punto ti pigli il televisore nuovo, se la tocca il culo qua con il televisore, sai cosa fai? Prendi, c'è il cassonetto più vicino e ti apri tutto. A me non ti metti problemi. Io ho finito di fare quei televisori, è un casino, hai capito? È veramente un casino. Basta qualsiasi cazzata e cambia tutto quel cazzo di televisore. Se magari dice ci fuori questo pezzo qui, vai a comprarlo e non ti cambia nulla, e non è il difetto di quello ma è il difetto dell'alimentazione. Quello che voglio dire, quello è capitato a me. Quando gli ho dato, ti ascolto, bene, la scheda hai comprato, ho detto non ha cambiato un cazzo. Ho detto un circuitino, ho detto sotto, ho detto dal video, comanda quello, gli ho detto. Dice, ma tu dovevi dimmelo la prima, che cazzo di discorsi sono dovevi dire la prima, gli ho detto. Io ho controllato la scheda e se permetti gli ho detto c'erano le azioni di tensione, tutto c'era, detto, era incasinato, ti sono arrivato all'ultimo, detto, Riccardo, proprio dopo essersi stato 4-5 giorni appresso, a me detto, quei 4-5 giorni detto, non me ne paga nessuno, quindi ho detto fa una cosa, prendi il televisore e te lo tacco in culo, gli ho detto, non ne vedo neanche sapere, capito? E così ho fatto, a un certo punto. Ci stavo pure incazzando, dicevo, ma perché ha cazzato la scheda? Ho detto, mi ha pagato, la scheda l'ho pagata io, ecco. Sopra il merito, ce l'ho rimessa io ti rimetto la scheda tua, e detto, con la scheda lì, me la prendo e me la rivendo, perché è nuova. Tutto lì. E ho detto, tutto ti incazzi. Ma potevi dire, cosa ne sapevo? Ho detto, potevi dirlo, cosa. Ho detto, la scheda che c'è sotto, ho detto, mica ti devo usare il televisore, è cambiata, ecco. Ah, va, cioè ti vai, detto, vai in negozio, ho detto come ho fatto io, ho detto a c***o, ho detto il televisore, ho detto 120 euro, come ho fatto io, vai, e dopo mi le balle, gli ho detto, e cosa, per fare la riparazione, ho detto 20-30 euro, vai, gli ho detto, ci sono i televisori, ho detto, l'ho preso, ho detto, ho non voglio, vai, te lo prendi, alla Comec, a Sacoma, non alla Comec. Oh, Luca, ci continua il mucio. Continua, ma mia papà, non ne mostro la fotografia. Riposo in pace Gianfranco Cicottino. Che è Cicottino? Chi non l'ha mai visto? Chi è quello che sale a piedi e si fa salire, salta discesa in cose, patonci di cose tutti i giorni, si è dato gli lucchi, cazzo. No, chi sa è cose, c'è Pinuccio. Ah, vabbè, intanto ne muore uno a Sassari, quindi. O per Covid o per altre cose. Purtroppo è così. Oi, mamma mia. Pur vedo che sei andato. Non so di più bene ultimamente. Prima l'hai pigliata che ci ruggi, no? Ma non mi hanno detto che non stava bene. Guarda che per cirrosi, cioè, non succede non c'è niente, no? Vivi anche 7 o 10 anni, basta che smetti di bere, vivi 7 o 10 anni quelli che sono, anche di più, non solo l'altro. Purtroppo lui quello non gli piaceva, non era lui se non beveva. E vabbè, uno è... vabbè. E fratello già... mi avevo fatto per molto quando ho ricoperato l'ospedale alle 4 del mattino, dice venga immediatamente e dice che suo fratello sta morendo, quando sono arrivato io gli ho detto vai a far culo lei, e ti immagina che c'è in testa, che mio fratello è più saluto di lei, gli ho detto 100.000 volte, gli ho detto uguale, grazie a Dio ancora vivo, io ti parlo di 7 anni fa, mi avevo fatto per morto. Andrew, non è vero, non è vero. No, con bugiardi, ma anche tu sono una tipa che lo conosce. Ma vai, hai messo una falsa. Chi è che l'ha messo? Marco Calinero l'ha messo. Quello è della Giulia. Perché sono tutte fake news, sono. Per carità. Quello da nessuno. Ognuno dice la sua, dice. Facendo altro, va. Almeno mi posso sdraiare, a chi così devo stare appoggiato? E allora? Vabbè, adesso opera. Sistemo con il microfono a palmare, almeno ti corichi con il microfono in mano. Scappa. Vedi, c'è anche l'altro parecchio. Non problema. Questo qua lo lascio così. Ah, questo già va bene, a voglia, ma te avanza. Poi in seguito non sai cosa devi comprare. Ti manca solamente quello VU e sei a posto, ti sei fatto la pezzata completa. Piano piano fai tutto. Oh, quello se lo può pigliare lo piglio solo da una persona perché mi fido. Perché sono sicuro che no, non mi dà fuck, non mi dà. Non mi frega a me. Sono sicurissimo e quindi quando lo dovrò prendere, lo prendo da lui. E boh. E appunto, poi ti manca solo il V e U, ti manca la base, anzi la macchina là, te lo metti in casa con una bella antenna verticale, come quella che si usa qui adesso, ti prendi una X300 e hai fatto 13. Chiappa, il V e U, ah, oh, io voglio il coso, voglio il chiappa. Vabbè, ti prendi quello. Quello c'è proprio, poi ti prendi un 2-1 e si è fatto la stazione completa, letto. Dico i cinesi, quelli che sono. Sono quelli, insomma. Costano poco e vanno bene. Così dicono. Ce l'ho visto, io ce l'ho. Quindi figurati, funziona bene. Ce n'è uno con l'antenata, con l'altra e funziona bene. Adesso l'unica cosa che devo fare è mettercela la X300, ce la installo da qualche altra parte, perché così ha problemi, mi dà problemi e basta. Adesso ho spento l'alimentatore, ho acceso l'altro e via. Cazzo di prenotazione di scuola guida. Allora, non avete il bambino? Appunto, che cosa si fa? Si è aperto strano. Non l'ho mai visto così. Cazzo, proprio il 118 è fisso, deve essere successo qualcosa. Ciao qua, buonasera. Ciao anche, buonasera. Ho detto, ma l'abbiamo mangiato perché non avete fame. Sì, sì, già tutto a posto, già mangiato tutto. Cos'è che ricordo dove vai? Ah, mi sei incantato in cosa, non ho capito perché. No, io ho già cenato, dai, poco fa. Ho fatto un paio di fettine di petti.